Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Bella ragazzi, sono Ludovico, vengo da Milano e non ho capito il perché del picchetto. E io sono Sara, vengo da Roma, da Fiumicino, e ho perso il mio accento. Non era accento. Accento. E niente, siamo abbastanza emozionati e adesso facciamo partire These Days dei Rudimental. Ribella raga. Allora, siamo sempre noi e oggi abbiamo fatto un'attività e il nostro sottocampo Jolly Roger. Esatto. E questa attività si chiamava Ask Boys and Girls. Una roba del genere. È bellissimo parlare inglese. E, ci si divideva in 5 gruppi, ovvero diritto, solidarietà, ambiente, volontariato e pace. E chi, a seconda del gruppo in cui stavi, dovevi creare una proposta da porre e per diciamo migliorare quell'ambito. E poi si faceva la votazione della proposta migliore e si manderà, si farà questo, si è fatto questo slogan e si manderà al CNJ per provare a realizzarla. E, io facevo diritto, per esempio, e la nostra idea alla fine ha vinto e l'abbiamo diciamo modificata un po', abbiamo aggiunto le idee degli altri per renderla migliore. Invece io ho fatto ambiente. La nostra idea è proprio stata scartata sin dall'inizio, però era bellissima, di prendere tutti gli alberi, cioè degli alberelli, andare nei centri grigi di ogni città, quelli pieni di cemento e senza alberi, metterlo lì con un cartello scritto prendetene cura come se fosse vostro figlio. Vabbè, esatto. Facciamo partire l'altra canzone. I Got a Woman di Ray Charles. Riri bella raga. Che ganzo stare qui, ok? Boh. E adesso parliamo degli accenti. E lei e Sara li sta imparando tutti? Io li sto imparando tutti, è veramente una cosa straordinaria, cioè non lo faccio apposta. Infatti tutti quelli del mio reparto mi prendono in giro perché non ho più l'accento romano. Vabbè, capito. Va bene. Nel bellissimo Jolly Roger ci sono i carichissimi polacchi. Sono fantastici. Raga, tutti dovremmo avere dei polacchi nel sottocampo. Ecco, infatti è regà, non è raga. Praticamente ci hanno insegnato moltissimi bani polacchi. Canzoni, ban. Banana, no. La banana, com'era? Pier banana, pier, pier banana. Shake banana, shake, shake banana. Invece di lingue straniere, cosa sai? Io so il turco perché mia sorella parte a settembre con Intercultura, fa l'anno all'estero e va in Turchia e mi ha insegnato 5 parole. Vai. Bellissimo, tipo ekmek, che è pane. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Poi c'è merhaba. Merhaba che ciao. Esatto. Poi c'è teşekkürle. Teşekkürle. Teşekkürle. Che significa grazie. Te è venuta in mente un'altra e quindi siamo a 6, che è tamam, che significa d'accordo. Güzel, che è bello. E ciao güzel, che è bello. Ciao güzel. E ciao güzel stare qui. Esatto. E qualche parola di polacco l'avete imparata? Chest. Ah, sì. Chest, che significa ciao. E poi c'era Porsche, che è grazie, una cosa... No, è per favore, una cosa del genere. E... Ah, poi c'è l'iraniano. In iraniano, salon, vuol dire ciao. Che ce l'ha nel reparto, lei, l'iraniano. Sì. Ovvio. Ovviamente. E adesso facciamo partire Everybody Needs Somebody dei Blue Brothers. Woohoo. Yes. Ri, bella raga. La cosa bellissima di questo campo è che è tutto ambientato nei libri e... Chi non adora i libri? Cioè dai, sono fantastici. Problema. Esatto. Film! Esatto, perché allora, spesso la trasposizione cinematografica non rispetta il valore e la profondità che ha un libro. Ecco, esatto. E quindi, niente, ne volevo un po' parlare. No. Perché, ecco, Percy Jackson. Io stenderei un velo pietoso su questo film. L'essenza è cambiata totalmente e, per esempio, i personaggi sono completamente diversi e anche la storia in generale non c'entra niente. Per dire semplicemente, se avessero cambiato il nome, il titolo del film, non si sarebbe potuta dire copiatura. Non si sarebbe potuto dire storpiatura. Che poi tu dicevi che i libri danno più spazio all'immaginazione anche, no? Infatti, cioè, io preferisco i libri soprattutto per l'immaginazione che danno, non solo per la storpiatura che fanno i film. Ci vorrebbe... Si può immaginare molto di più. Io mi immaginavo un Percy Jackson completamente diverso da quello del libro, cioè del film. E poi la cosa che dicevate era che cambia l'essenza, tu, del personaggio. Che cos'è che cambia nell'essenza del personaggio? Annabeth Chase era la studiosa che si portava i libri di storia antica in ovunque. Ovunque. E anche quando andava a catturare i mostri, tu la vedevi che aveva il libro di greco in mano. E invece è diventata una guerriera. Quindi forse un po' il classificatore è anche questo, no? L'azione dei film sui libri che distorcono poi, no? L'essenza. Sì, perché appunto credo che il classificatore, nel senso, come idea non abbia più senso. Perché dai, cioè non puoi decidere di distruggere l'essenza dei libri, non si può. Perché alla fine l'essenza di un libro è quello che lo caratterizza e credo che sia appunto questo il bello del libro, ognuno lascia qualcosa. È importante anche leggere, secondo voi, quindi, cioè in generale? È fondamentale. Infatti, perché diciamo che molti preferiscono i film perché dicono che sono più di azione, più coinvolgente, però credo che non leggendo si sta perdendo di tutto la vena di inventiva, di fantasia che si aveva all'inizio, perché ci stanno ad esempio dei miei amici che dicono che i libri sono noiosi perché ci metti tanto, devi leggere. Ma invece il film, non so, vedono i film d'azione perché ti coinvolge. Però credo che anche un libro ti può coinvolgere se ci metti il film. E lo scout in questo contesto, cioè di immaginazione e azione, secondo voi ha un legame? Comunque gli scout si inventano anche modi per... non lo so, comunque per esempio per cucinare, oppure se ti si rompe il fuoco, cioè se non riesci a accendere il fuoco, lo scout aiuti anche in questo. E per quanto riguarda i sottocampi, appunto, erano presi dai libri e noi siamo felicissimi. E per esempio, appunto, ci stava la fabbrica di cioccolato, che buono il cioccolato. Pensare, se l'avete letto o visto il film, vorreste entrare in quella fabbrica, perché veramente che buono. E oppure c'è Sherlock Holmes, Baker Street, e vi salutiamo a voi che stavate in Baker Street. E molto, è stato molto bello. Sherlock Holmes è stata la mia infanzia probabilmente, e anche a Sherlock Holmes hanno riadattato dei film e dei libri. E invece la serie TV è bellissima l'idea di riadattare Sherlock Holmes alla vita di tutti i giorni di Londra. E in questo caso c'è la differenza, dicevate voi prima, cioè non è la distorsione ma è qualcosa di diverso, sì. No? È una distorsione di altro tipo, è una distorsione verso il miglioramento come l'evoluzione. Perché hanno preso gli stessi personaggi e magari hanno preso anche dei crimini su cui lui aveva investigato, li hanno cambiati, li hanno riadattati in epoca moderna. Quindi è molto bello, secondo me. E a differenza di alcuni film in cui comunque cercano di mantenere la storia, cioè comunque la storia deve essere questa. In questa serie hanno comunque totalmente stravolto, e però hanno usato gli stessi personaggi che hanno le stesse caratteristiche. Quindi alla fine viene comunque bene. E adesso allora andiamo a leggere la storia legata alla base che avete fatto oggi, l'attività che avete fatto oggi, cioè Ask the Boys and Girl, che è Coraline, quindi buon ascolto. Coraline scoprì quella porta